Il cacciatore di libri. Oggi vi parlo di un'autrice pakistana che è stata definita da Salman Rushdie, quello dei versi satanici per intenderci, come una scrittrice immensa per talento ed energia. Si tratta di Kamila Shamsi. Forse qualcuno la ricorderà per Sale Zafferano oppure Versi spezzati pubblicati in Italia da Ponti alle Grazie. E ora, sempre a Ponti alle Grazie, ha appena mandato in libreria Ombre bruciate con la traduzione di Guido Calza. Protagonista Hiroko, una ragazza che il 9 agosto del 45 è a Nagasaki quando viene sganciata la bomba atomica. Perde tutto, compreso l'amore della sua vita. Le rimangono solo 3 ustioni a forma di gru sulla schiena. 2 anni dopo si trasferisce a Delhi, in India, in cerca della sorella del fidanzato che ha perso. Da qui inizia una nuova vita. Ma ecco come Kamila Shamsi parla del suo libro al microfono di Marco Lignana. It's a book that covers 6 years and 5 countries. So it starts in Nagasaki in 1945, the day the bomb falls. È un libro che copre 60 anni e tocca 5 paesi. Comincia a Nagasaki nel 1945, il giorno dello scoppio della bomba nucleare. Poi nel 1947 a Delhi, poco prima della separazione fra India e Pakistan. Nell'83 si sposta al confine tra Pakistan e Afghanistan e finisce nel 2002 fra New York e l'Afghanistan. Racconta la storia di 2 famiglie, per dirla in modo semplicistico, una dell'est e una dell'ovest, e racconta come la vita dei componenti di questi nuclei familiari si intreccino in luoghi e periodi storici diversi. È un libro che guarda a quel che accade alle relazioni personali, alle singole vite, quando la storia si scontra con le vite individuali. In mondi così differenti, in epoche così differenti, ci sono degli elementi in comune? One of the things I was looking at is what the people of one nation are willing to do if they're frightened enough. Una delle cose che ho voluto descrivere è ciò che possono arrivare a fare le persone di un determinato paese se sono abbastanza spaventate o abbastanza arrabbiate. L'idea che un cittadino sia disposto ad accettare che un governo imponga sofferenze a qualcun altro in nome della sicurezza interna. Questo aspetto, in un certo senso, lega i giorni di Nagasaki ai tempi della lotta al terrore di oggi. Nell'ultima sezione del libro siamo nel 2002 e il personaggio di Kim mostra quanto fossero terrorizzate le persone in America. Ho vissuto molto tempo negli Stati Uniti dopo l'11 settembre e ho potuto vedere di persona il terrore con il quale gli americani non erano abituati a convivere. Kim è una ragazza molto buona e generosa, ma per paura di essere attaccata e per l'esistenza di un nemico che non riesce a identificare, finisce per compiere scelte sbagliate che feriscono le persone che non vorrebbe ferire. She ends up making very bad choices that hurt people she wouldn't want to. A distanza di quasi 10 anni dall'11 settembre, questo discorso sulla paura è sempre valido? Yes, but I think less so. Less than it was 10 years ago. I think people are learning to live with fear. Sì, ma credo ci sia meno paura di 10 anni fa. Penso che le persone abbiano imparato a convivere con la paura e a capire determinate cose. Va detto che probabilmente 5 anni fa Barack Obama non avrebbe potuto essere eletto. La sua retorica si basa proprio sulla teoria che gli Stati Uniti hanno imboccato la strada sbagliata e adesso devono tornare sulla retta via. Quindi è vero che alcune posizioni si sono indurite. I pakistani sono diventati molto più anti-americani e l'America più sospettosa. Quindi non si può dire che le cose siano migliorate più di tanto, ma penso ci sia meno panico di 10 anni fa. So it's not that I'm saying things have got better, but I think there's less panic than there was 10 years ago. Tornando al romanzo, personaggi così sballottati fra un evento e l'altro, così colpiti da grandi tragedie, riescono a determinare la propria vita o sono semplicemente un frutto degli eventi storici in corso? I think it's a mix of both. I think anyone who believes they have total control over their lives has never lived. Credo che sia una combinazione di entrambe le cose. Penso che una persona convinta di determinare in tutto la propria vita non abbia mai vissuto in città dove esplodono bombe tutto il giorno. Quindi c'è sempre una componente accidentale, ma non vuol dire che la gente non abbia la capacità di fare delle scelte. Nel romanzo i personaggi sono tutti responsabili per le scelte importanti che fanno, ma alcune volte avvengono cose assolutamente non previste. In definitiva, abbiamo limitate possibilità di determinare da soli le nostre vite, ma in fondo il mondo è pieno di cose che non possiamo controllare. There's too much else in the world that you can't control. E questa era Camila Shamsi, autrice di Ombre bruciate, pubblicato in Italia da Ponti alle Grazie. Fra i libri freschi di stampa vi segnaliamo l'ultimo della giapponese Banana Yoshimoto. In Italia è diventata famosa soprattutto a partire dal 91 con Kitchen. L'ultimo romanzo si intitola Delfini ed è pubblicato come sempre da Feltrinelli e con la traduzione di Alessandro Giovanni Gerivini. La protagonista è Kimiko, una giovane scrittrice di romanzi rosa che ha una breve relazione con un ragazzo Goro. Resta incinta e la gravidanza è scandita da un sogno ricorrente, delfini che nuotano. C'è da dire che in Giappone ai delfini viene attribuito il ruolo simbolico che invece qui in Occidente diamo alle cicogne. Il romanzo è dunque decisamente intimista. Sentiamo l'incipit. Sul finire dell'inverno presi una brutta influenza. Tutto ebbe inizio in quel momento e credo che se non mi fossi ammalata, niente di quello che mi accadde in seguito sarebbe mai successo. Si trattò di un'esperienza odiosa, insopportabile, che proprio non avrei voluto vivere, ma anche di un punto di partenza fondamentale, di un vero e proprio mistero della vita, almeno così sospettavo. Mi venne la febbre talmente alta da non potermi alzare dal letto, nemmeno sforzandomi. Di solito sono un tipo forte, ed era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere. Se cercavo di stare in piedi, mi girava la testa e dovevo sedermi. Riuscivo a malapena a bere dell'acqua o del succo di frutta. Mi ci vollero 2 giorni anche per trovare la forza di andare all'ospedale a farmi visitare. E questo era l'incipit di Delfini, l'ultimo romanzo di Banana Yoshimoto. E invece una raccolta di racconti, il volume che si intitola Sempre più verso Occidente. Li ha scritti Daniele Pugliese, pubblicati da Baskerville. Il racconto che dà il titolo alla raccolta ricorda volutamente il racconto Verso Occidente, scritto da Primo Levi. E fra Pugliese e Primo Levi c'era stata proprio una corrispondenza su questo racconto nel 1986. Ma sentiamo innanzitutto dall'autore se fra i vari racconti esiste un legame. Per me non è facile trovarlo, nel senso probabilmente il lettore lo trova più facilmente di me. Forse quello che ha scritto l'editore nella quarta di copertina è abbastanza realistico e probabilmente riesco ad identificarmi. Scrive l'editore, dice che cos'è che lega i vari racconti. Certamente temi che si rincorrono nei 10 racconti di questo libro, la morte, l'amicizia, l'amore illecito. Ma più che altro, probabilmente, il tentativo di guardare negli occhi l'assurdo, il refuso stratosferico, il vizio di forma, la cellula tumorale, le sliding doors storiche. Probabilmente questo è il filo che li lega, è un grande pessimismo, ma non è vero, non lo posso neanche chiamare pessimismo perché non sono pessimista, sono cupo, cerco di guardare le cose anche dolorose della vita. E a proposito, ecco, di cose dolorose, nell'introduzione viene citata una frase di Primo Levi che dice: «Lei ha preso molto, troppo sul serio un mio racconto di cui oggi mi vergogno un poco, perché l'ho scritto in un momento di angoscia e di debolezza, e perché invece di essere d'aiuto all'eventuale lettore, rischia di estendere a lui il disagio dell'autore». Perché ha deciso di citare questa frase? Dunque, questo è anche uno dei motivi per cui io ho aspettato molto tempo prima di pubblicarli, perché quel racconto che si intitola Sempre più verso Occidente, che prende spunto da un racconto di Primo Levi che si chiama Verso Occidente, pubblicato nel volume Vizio di Forma, mi ha impedito per molto tempo di avere il coraggio di pubblicare, perché non volevo rivelare una corrispondenza privata tra lui e me che c'era stata nel momento in cui io scrissi quel racconto, glielo mandai a leggere. E quella fu la risposta che lui mi dette. Io gli risposi ancora dicendo che non ero d'accordo con lui, nel senso che ci sono momenti in cui il proprio dolore va detto, va raccontato, e non è questo che addolora il lettore o il... Perché leggendo il suo libro mi era stato di grande aiuto invece. E quindi secondo me lui aveva fatto bene a scrivere quel racconto, perché insegna molto, perché può aiutare le persone a capire, non doveva vergognarsi di averlo pubblicato. Perché ha scelto il format del racconto e non invece, per esempio, del romanzo? Perché io ho letto tanti racconti di Primo Levi e mi hanno entusiasmato, ma ho letto anche tanti racconti di Schnitzler, di Tolstoi, di Flaubert, di Carver, Ed è una forma che mi piace molto, e forse essendo stato un giornalista che scriveva articoli brevi, la forma di un racconto breve mi era più congeniale. Ma potrei anche dire perché sono un incapace a scrivere un romanzo, oppure potrei dire che non mi è ancora venuta l'idea completa di un romanzo, e quindi per ora mi accontento del racconto. E questo era Daniele Pugliese, autore di Sempre più verso Occidente, pubblicato da Baskerville. In chiusura, da oggi inauguriamo una piccola rubrica all'interno del Cacciatore di Libri, i consigli d'autore. Oggi il libro consigliato da Susanna Tamaro. L'ho letto quest'estate, che è il periodo in cui leggo al mare, con tutti i momenti di ferie, di vacanza. Ho letto un libro di uno scrittore algerino, molto bello, che si chiama Quel che il giorno deve alla notte. Lui si chiama Jasmina Kadra, è un pseudonimo, perché il nome della donna lui in realtà è un uomo, e lo pubblicano Mondadori. È una bellissima storia, ambientata in Algeria, di un'amicizia tra quattro ragazzi dagli anni 30 fino ai tempi contemporanei, un grande romanzo. Il consiglio di Susanna Tamaro era dunque Quel che il giorno deve alla notte, di Jasmina Kadra, pubblicato da Mondadori. La Tamaro invece, lo ricordiamo, ora è in libreria con il racconto per ragazzi Il grande albero, pubblicato da Salani. E tra l'altro vi ricordiamo che il racconto è anche disponibile da metà gennaio nella versione per iPhone su iTunes. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.